Radio 24. Libera la voglia di fare. Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva animale. Di Rosita Celentano e Angelo Vaira. Buona domenica! Certo che come fisarmonica, vero? Come strumento musicale, è proprio com'è? Chi non aveva capito che ormai era arrivato il momento della sigla, esatto. Di Chiedimi se sono felice, ogni domenica alle 12 su Radio 24, chi? Scriveteci a chiedimi se sono felice @radio24.it, se no, se volete riascoltarvi le vecchie puntate importantissime, perché questo programma bisognerebbe ascoltarlo all'infinito, andate sui podcast di Radio 24, sul programma Chiedimi se sono felice, potete riascoltare dall'inizio a oggi. E infatti grazie per tutte le mail che ci inviate, perché pare che il nostro programma piaccia sia a chi ha i cani che a chi ha i cani che a chi, certo, i cani non li ha, certo. Sia a chi ha i cani che a chi ha i cani, No, volevo dire, questa musichetta fantastica che è la nostra sigla è la colonna sonora di un film che io ho amato, La follia, che vi giuro avrò visto più di 100 volte, ma non per dire tante, 100 volte, sì proprio più di 100 volte, che è La grande corsa, con degli attori pazzeschi: Natalie Wood, Tony Curtis, c'era il tenente Colombo, che non mi ricordo come si chiama nella vita, esatto, Rin Tin Tin. Ma che Rin Tin Tin? Ma dai, ma no, è il mitico Jack Lemmon. Cioè, una commedia divertentissima, guardatela, ovviamente. Guardatela così riconoscerete, insomma, questa sigla, che quindi non è la sigla di un circo come un paio di volte ci hanno detto, ma togliete la sigla del circo perché coi circhi non siamo d'accordo. Sono avanti quelli che ci hanno detto, molto avanti, sul pezzo. Posso dirvi, allora, se uno non conosce quei film, pensa la stessa cosa. Vabbè, insomma. Allora, dottor Vaira, io volevo sfruttarti. Brava. Allora, perché piace la nostra trasmissione anche a chi i cani perché non ce li ha? Io. Esattamente, perché Rosita Celentano piace. Piaccio. No, perché parliamo non soltanto di animali, ma la prospettiva animale ci aiuta a crescere come esseri umani e spesso tracciamo dei paralleli. Per esempio, l'argomento che con tanta bellezza davanti ai miei occhi ha scelto per oggi. Sono i miei capelli bianchi. Che c'entra? Ma così, ma c'entra tutto quello che dico, c'entra sempre, no. Anche se non c'entra, c'entra. Ma c'erano le 6 chiavi per risolvere ma i problemi, certo, di comportamento del cane. Allora, i 6 livelli di apprendimento, perché il nostro dottor Vaira ci ha diviso in 6 livelli, che vi assicuro, io lo conosco oramai da qualche anno quest'uomo, ma mi sorprende sempre. No, nel senso che ne avevo sentito parlare. Effettivamente, messi così, aiutano molto a capire di più il comportamento di un cane, sì, e sapere qual è l'approccio cognitivo giusto. Ma tra l'altro, siccome sono mutuati da livelli cognitivi, neurologici, si chiamano d'apprendimento inumana, ci parlano moltissimo anche di noi. Sì, perché questo modello qui origina dagli studi di Bertrand Russell sui tipi logici. Bertrand Russell era un filosofo, ma anche matematico. Poi sono stati ripresi da Gregory Bateson in versione Ecologia della Mente, con i livelli di apprendimento, e poi da Robert Diels in Umana. Ed è molto interessante. Però a che cosa ci servono noi? A capire come funziona la mente di un cane, e quindi eventualmente ad aiutarlo a risolvere problemi di comportamento. Esatto. Allora, i punti sono 6, ora ve li leggo tutti, però ne svilupperemo con Angelo uno per puntata. Allora, i 6 punti sono: ambiente, comportamento, capacità, condivisioni e valori. Convinzioni. Ecco, sono pure ciecata nonostante gli occhiali. Convinzioni e valori, identità e spirito. E oggi, esatto, iniziamo con il primo livello, l'ambiente. L'ambiente, però volevo dire una cosa: questi livelli sono posti, così come li hai letti tu, dal basso verso l'alto, in un ordine gerarchico, perché effettivamente quelli più in alto organizzano quelli più in basso, cioè quindi l'ultimo, lo spirito, organizza il primo. Cioè, per farti un esempio, il livello del comportamento: un cane abbaia ad un altro cane, io posso cambiarne il comportamento, per esempio dicendogli bravo quando fa il bravo, eccetera eccetera, oppure le capacità, che è il livello successivo, quindi lo rendo più capace di scegliere comportamenti alternativi, per esempio dei segnali calmanti, una certa comunicazione di calma e pacifica in luogo dell'aggressività. Ma è ancora più importante agire a livello più alto, che è quello delle convinzioni, cioè come il cane vede gli altri cani, perché normalmente il cane è aggressivo quando è frustrato o si sente minacciato, in pericolo, no? E l'altra cosa importante da sapere su questi livelli, prima di passare all'ambiente, che magari poi, se non abbiamo tempo, lo tratteremo la prossima volta, è facile capirne l'impatto, perché ognuno di questi livelli corrisponde ad una domanda. Per esempio, l'ambiente corrisponde alla domanda dove, quando, cioè dove che succede una certa cosa, sì, e quando. Il comportamento corrisponde alla domanda cosa, e via dicendo. E allora ti faccio un esempio: mettiamo che una persona beva, cioè abbia l'abitudine di bere, no? Riportato a noi esseri umani. Beva alcol. Alcol. Allora, non so, lui torna a casa, insomma, mezzo brillo, e la moglie gli dice: mi preoccupa quando esci con i tuoi amici. Perché bevi? E qui ci sono i primi due livelli di comportamento, no? L'ambiente, dove, quando, con i tuoi amici, e perché bevi, il tuo comportamento. Tu immagina però se la moglie dicesse: non hai la capacità di smettere di bere. Vedi come cresce l'impatto? Oppure sul livello di convinzioni e valori: è più importante l'alcol della tua famiglia. Wow. Cioè, capisci come diventa più... Capisci come siamo... La linguistica cambia, esatto. Proprio più potente. Oppure l'identità: sei un alcolizzato. Porca miseria. Quindi, insomma... Bello questo esempio, mi è piaciuto molto. Sarò ripetitiva, però mi rendo conto che quello che dice Angelo e che diciamo qui nella relazione con gli animali, con il cane in modo particolare, vale esattamente con le persone. Perché se tu adesso non a caso hai fatto... un esempio fra esseri umani, proprio per far capire la stessa cosa poi nel rapporto con il cane. Però tu immagina quando noi ci approcciamo ad un problema del cane. Prima parlavamo dell'aggressività, no? La stessa cosa, è importante capire questi livelli perché ti aiutano a definire meglio come si sviluppa questo comportamento. Per esempio, il mio approccio a questo comportamento può determinare il successo e il fallimento della eventuale terapia o riabilitazione che io comincio. Ma per esempio, dimmi. Nel caso del cane, per esempio, il cane aggressivo, è quando il cane va ai giardinetti e incontra l'altro cane, diventa aggressivo, abbaia e morde, no? Quindi ambiente e comportamento. Oppure io posso dire, che ne so, la mia compagna, questo cane non ha la capacità di trattenersi. Senti come cresce? Sì. Oppure è più importante essere aggressivo con gli altri cani che addirittura l'amore che ha per me, perché io non conto nulla per lui. Quindi qua vai sul livello dei valori. Sull'identità. Sull'identità è un cane aggressivo. Cioè tu fai di un comportamento... Quello spirito no. Lo spirito è relativo alle persone e nei cani, agli esseri umani. Nei cani io l'ho trasmutato in relazioni e interdipendenza, che tratteremo poi al momento opportuno. Allora, adesso ci abbiamo subito il primo break, però pensiamoci durante la pausa, perché non so se vale la pena fare una puntata dove parliamo di questi 6 punti tutti assieme, perché è molto interessante l'argomento, se dividerlo. Lo dividiamo. Prossima volta parleremo di come cambiare il comportamento del cane partendo dall'ambiente, poi vabbè, andremo avanti. Ha deciso lui, come sempre. OneExpress.it, il pallet network italiano che viaggia in Europa, vi presenta Chiedimi se sono felice, il mondo dalla prospettiva animale. Oh, eccoci qua. Allora, dicevamo, l'altro giorno mi diceva Manuela, una mia amica che ha un Whippet di taglia media, che tutte le volte che va all'area cani però non si sente sicura perché il suo cane inizia a correre, non riesce mai a capire come fa a entrare all'area cani e poter lasciare il suo cane libero, essere tranquilla che fra di loro non ci sia un cane. Come fai? Deve avere esperienza. Allora, quella dell'area cani è una cosa tutta particolare. Le aree cani nascono per consentire ai proprietari di cani di sguinzagliare i cani all'interno di una certa area recintata, non sempre recintata, perché per esempio a Parco Nord di Milano l'area cani è delimitata da dei paletti per terra. Idea molto bella, tra l'altro, un'area cani immensa. Allora, che cosa è? È un luogo all'interno di un parco più grande dove i proprietari sono autorizzati a liberare i cani, perché ricordiamo che secondo il codice civile, insomma le norme di legge, i cani devono essere tenuti al guinzaglio o con la museruola. Anche dentro l'area cani, no? Nell'area cani no, cioè lì hai il permesso di poter liberare il tuo cane senza guinzaglio, senza museruola, e farlo per esempio socializzare con gli altri cani. Il punto qual è? Che la vita media del cane cittadino normalmente è quello di uscire di casa, andare all'area cani, essere liberato. Normalmente i proprietari parlano tra di loro, stanno seduti, si fanno un po' i cavoli loro, i cani giocano tra di loro e poi a un certo punto il proprietario decide di tornare a casa. Questo però può creare diversi problemi. Per esempio, alcuni cani, visto che il proprietario ha proprio sempre la stessa routine, no? I cani vanno per anticipazione, lo sanno che cosa che succede. Certo. A un certo punto il proprietario, soprattutto i cani giovani, no? Furbi, che vogliono giocare, no? Sanno che il proprietario quando chiama è per rimettere il guinzaglio e tornare a casa. E col cavolo si fanno prendere. E quindi non si fanno prendere. E quindi succede che per esempio fanno un invito al gioco, no? Questo serve tra l'altro al cane per evitare che il proprietario si arrabbi, perché normalmente il proprietario poi ha anche questo nello schema: io ti chiamo, tu non torni, io mi arrabbio. Il cane cosa fa? Per renderti più mansueto. Intelligenti. No, certo. Per renderti più mansueto si mette a giocare, ti fa l'invito al gioco, ti scansa fino a quando tu non ti arrabbi pesantemente, il cane magari si blocca e riesci a recuperarlo. C'è chi sbagliando lo picchia anche in quel momento, rimprovera il cane, quindi il cane la prossima volta, sapendo tutto questo iter, avrà ancora più difficoltà a tornare al richiamo. Quindi, ecco, vedi quante cose emergono da una situazione come quella dell'aria cani. In realtà dobbiamo stare attenti, perché se noi quando chiamiamo il cane non torna, noi lo rimproveriamo, il cane avrà sempre più problemi a tornare da noi, certo. Perché sa che quando si avvicina le prende, perché dovrebbe avvicinarsi. Giustamente. Noi invece dobbiamo essere molto interessanti, dobbiamo essere più interessanti di tutto quello che c'è attorno. Questa cosa va costruita, certamente non facendoti i cavoli tuoi quando parli con le altre persone. Perché teoricamente dovrebbe essere anche un momento di scambio fra il cane e il padrone, cioè tu dovresti andare al parco, sì, puoi anche parlare con gli altri padroni di cani, che poi si diventa tutti amici più o meno, sono sempre le stesse persone, però interagire sempre costantemente, magari tutti assieme con i cani. Scherzi, ma il momento della passeggiata col cane è un momento d'oro per sviluppare anche il tuo di rapporto col cane. Non devi essere soltanto un palo con il guinzaglio attaccato che prende il cane, lo porta all'aria cani e poi lo lascia lì, parla con gli altri, non se lo fila quasi per niente e poi alla fine lo riporti a casa. Però il discorso è questo, che poi quando tu fai questo schema, per esempio, molti cani tirano per andare al parco, perché sanno che tanto la passeggiata è sempre quella, e portando il cane tutti i giorni al parco in quel modo, il momento più bello per il cane è proprio quello di stare insieme agli altri cani. Quindi evita di stare con te, non gliene frega nulla di te, giustamente, perché voglio dire, se la mia vita è starmene a casa, aspettare che tu torni dal lavoro, c'è qualche coccola questo sul divano. Questo dal punto di vista del cane. Dal punto di vista del cane. Io sono un cane, no? Aspetto pazientemente che tu torni dal lavoro. Quando torni ti faccio qualche festa. Al massimo la nostra interazione è: mi dai da mangiare a casa, facciamo le coccole a casa. Quindi quelli sono i momenti di massima interazione con te. Possono essere anche molto belli. Ma fuori qual è la cosa più bella? Giocare con gli altri cani. Quindi io tiro al guinzaglio perché non vedo l'ora di arrivare all'area cani. Ok, questo è lo schema. Allora, l'area cani dovrebbe essere trattata come un punto di passaggio. Quella socializzazione, non è necessario che il cane stia lì tutto il tempo a giocare con gli altri cani. Il momento della passeggiata è un momento molto importante per strutturare il nostro rapporto. Come devo fare io qualcosa col cane? La bellezza del gioco con me quando arriva soltanto in casa con un po' di lotta, io dovrei portarmi fuori delle palline, una treccia, dovrei nascondere delle cose, fargliele cercare e imparare a farlo, magari con un corso. Ci sono dei seminari dove ti insegnano a fare ricerca col cane, della ricerca per gioco, non è che devi fare ricerca su superficie, su macerie, no, queste cose qui. Però significa che tu fai una bella passeggiata, non si sa quando arrivi al parco, quindi il cane non si mette a tirare, perché passeggia, lui cammina in tutto il parco con un guinzaglio, meglio se è lungo. E poi quindi annuso per terra, eccetera. Ogni tanto arriviamo all'area cane, nell'area cane viene sguinzagliato, l'attraversi, ci stai un po', 5, 10 minuti, un quarto d'ora, 20 minuti al massimo, dopodiché esci di nuovo ed esci mettendo il guinzaglio al cane, non per tornare a casa, ma per prolungare la passeggiata, andare in un'altra area cani, per esempio, no? Annusare altri quartieri. Quindi il cane in questo caso qui sa che quando tu lo chiami non è per mettere fine ai giochi, ma per farne di nuovi. E quando tu esci dall'area cani, oppure sei solo in area cani, ti metti a giocare, lanci una pallina, gliela nascondi, ti metti a giocare a rincorrerti, questo sì che interessa il cane. Ascoltavo in silenzio Rapita, non ti sei stupito? Che fosse in silenzio, esatto. Sì. Hai visto? No, perché effettivamente, no, perché stavo pensando per esempio al cane di Pino Quartullo, con cui sto facendo teatro, con qualche volta scappano, che ha salvato un anno fa in Sardegna questo cucciolo che ho trovato in mezzo all'autostrada, che ha chiamato Palau proprio perché l'ha trovato lì. Splendida. Vicino a Palau, che è fantastica, è buffissima, vuole giocare, cioè è piena di vita, è molto vitale, e mi dice sempre, lui è un pazzo scatenato perché la libera ovunque, iniziano a giocare a guardie e ladri e il cane si diverte come una pazza, solo che fanno una fatica boia poi a riprenderla. Perché poi quando la riprendono cosa succede? Esatto. Fine e dei ora giochi. Ho capito, te stavo ascoltando. Pino, ti devi assolutamente concentrare, e se non hai sentito la puntata adesso direttamente in diretta, te la devi andare a riascoltare nei podcast, perché parla proprio del vostro rapporto con Palau. Cioè il cane dovrebbe essere messo, un cane che ha problemi a tornare dopo al guinzaglio, dovrebbe vivere il tornare al guinzaglio come un torno al guinzaglio, si gioca insieme anche con il guinzaglio, oppure mi danno un premio, poi mi liberano di nuovo. Dovrebbe tornare al guinzaglio 5, 6, 7 volte durante la passeggiata per fargli capire che guinzaglio non significa torniamo a casa, significa facciamo altre cose. Certo. Mi spiego? Altrimenti il cane, che è intelligente, anticipa, sa che quando mi chiamano per mettermi il guinzaglio si torna a casa, e col cavolo che torna. Ti dice col beep. Esatto. L'altro pericolo delle aree cani, abbiamo ancora tempo dalla regia? L'altro pericolo delle aree cani è che sono spesso troppo piccole. E quindi troppo piccolo con troppi cani. Sovraffollamento. Diventa, quindi ci sono dei cani che la reggono perché si mettono a giocare. Già sono cani nuovi, giovani, giocherelloni, eccetera. Ma ci sono degli altri cani che la soffrono un po'. Quando vi accorgete che il vostro cane soffre un po' l'aria cane, non continuate a tenerlo lì, non è necessario, dategli più distanza, dategli più agio, ha bisogno che di non avere tutti gli altri cani attorno, fatevi una passeggiata lunga. Le attività a basso contenuto emozionale, ecco, dovrebbero essere attività prolungate perché aiutano a calmare il cane, a rasserenarlo, è come per noi un bagno caldo, una passeggiata tranquilla, no? E l'altra cosa che io vi consiglio, anche su questo dobbiamo dedicare una puntata a questa cosa qua, lasciate il cellulare a casa. Perché il cellulare con le continue notifiche, gli smartphone, eccetera, eccetera, interrompono continuamente il flusso del qui e ora della passeggiata, dove il cane è perfettamente lì, mentre noi stiamo pensando ad altro. Già è difficile perché pensiamo ad altro, se poi ci mettiamo a leggere lo schermo del cellulare mentre stiamo facendo una passeggiata, il cane si può sentire il cane più solo quando è in nostra compagnia e noi siamo assenti mentalmente, rispetto a quando è solo e noi non ci siamo nemmeno fisicamente. Senti, questa cosa del sovraffollamento è una cosa che ho imparato con te, perché prima era non percepivo minimamente il fatto che ci potessero essere troppi cani in un'area troppo piccola. Perché non la percepivo come un problema, mentre da quando tu me l'hai spiegato e mi hai raccontato ho iniziato ad accorgermi anch'io, a vedere o aree cani troppo piccole o anche chi altri sorta di animali non nei solo. Laghetti con troppi volatili, troppi tutti stretti. Pensa che il gioco e lo scherzo negli esseri umani sono dei modi per frizionare l'interazione sociale, cioè per renderla più accettabile, cioè laddove c'è un'interazione che ti preoccupa la butti sul gioco, la butti sullo scherzo, no? A me mi preoccupa tutto perché butto tutto sullo tutti scherzo. Tutti sullo scherzo, ma infatti ti deve far riflettere anche questa cosa. Cioè cos'è, com'è che chi butta sullo scherzo cos'è? Cosa fa? Non necessariamente, ma scherzare, ridere, scherzare può essere un modo di attutire l'impatto sociale. Cioè non so che cosa farci, la butto sul gioco, che è un'ottima strategia, No, io non è proprio non so che cosa farci, io la butto sul gioco a prescindere. Ok, vabbè, poi ognuno si esaminerà, okay. non è che scherzare, no, esaminami, giocare. Dai, esaminami. Non è che giocare, scherzare. Esaminami. Madonna che pesante che è stamattina. Sta domenica gli avevo, Madonna che pesante stamattina. Io sono pesante. È che io. Addio, aiutatemi. No, guarda. Comunque stavo dicendo, per i cani, buttarla sul gioco può essere un modo di attutire il loro disagio. E quindi quando giochiamo, quando vediamo... Sì, perché il 60% delle aggressività viene smorzato attraverso il gioco. Noi non ce ne accorgiamo. Allora, perdiamo il soggetto. Cioè, noi dobbiamo buttarla sul gioco quando vediamo il cane che è stressato o sono loro che lo fanno? No, quando vediamo i cani giocare in area cani, dobbiamo chiederci se quel modo di giocare è un modo di rispondere al disagio causato dal sovraffollamento. Ah, ok, però solamente un esperto come te lo riesce a capire. E però una persona si deve fare questa domanda e continuare a capire. Poi non è vero che soltanto un esperto come me può capirlo. Basta fare un corso per educazione in cui ti insegnano il linguaggio del cane. Beh, e tu sei in grado di capirlo. E vabbè, dopo. Grazie, ho capito. Però sto dicendo, ma quanta gente comune fa il corso? Oppure basta ascoltare Radio 24, chiedimi se sono felice e lo saprete. Possiamo fare una puntata. E oggi vengo l'idea sulle puntate. Oggi, una puntata sul linguaggio del cane. Ah sì, prendiamo appunti, vi faremo una puntata sul linguaggio comunque, del insomma, cane. Comunque, insomma, oggi secondo me è doveroso. Adotti un cane, tu devi capire. Capire almeno come parla, qualcosa ti comunica, fai un seminario su come sul linguaggio del corpo. Ma del guarda, cane. Dirò una cosa banalissima: oggi è doveroso farlo con il cane, forse perché ti aiuta a capire anche come devi essere con un figlio, certo. Come devi essere tra fra compagni. Quando tu quindi devi alla fine adottare un bambino, ti fanno un corso pre-adozione in cui capisci la comunicazione del bambino. Dovremmo fare la stessa cosa con i cani. Ma in Svizzera c'era il patentino famoso. Adesso non sappiamo se c'è ancora oppure no. Cioè, la Svizzera aveva una cosa interessante. Questo patentino, adesso ci ripensiamo, lavoreremo per migliorare questo tipo di relazioni che poi ci fanno vivere meglio anche a noi. Che vuoi? Niente, come dicevano i latini, da una sola cosa poi tu ragionandoci sopra ne puoi capire molte altre, quindi dall'aria cani siamo passati poi a diramare tante cose. Ecco, con questa pillola di saggezza pensa che io da una sola cosa non riesco a farti capire niente. A fra poco. Sono Giovanni Minoli, tutti i giorni Mix 24 in onda dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 10.30 con Mario Secchi. Vabbè, però io l'avevo detto, eh. E Pietrangelo Buttafuoco. Ecco la risposta a quello che chiedeva Mario prima. Di faccia a faccia, le inchieste, dentro la notizia e gialli della storia. Poi libri, gli appuntamenti, il cinema, tutti i venerdì con Alessandra Fiori e Alessandra Cravetto. Ciao Ale. Ciao Ale. Ciao Ale. E la musica di Franco Schipani. Iniziamo con con la Hit Parade. Da quest'anno, oltre agli interventi in diretta, lasciate i vostri commenti, segnalazioni, critiche anche alla nostra segreteria telefonica al numero 02 46 52 41 83. Vi risponderemo. Mix 24, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.30. Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva animale. Beh, finalmente, Angelo, siamo riusciti. Allora, sono felicissima, abbiamo un ospite veramente molto importante, perché spesso a noi amanti di animali, noi che difendiamo a tutti i costi la vita sotto tutti i profili, perché non è che amare gli animali vuol dire non amare gli esseri umani. Chi ha sensibilità per l'altro ce l'ha per l'altro, indipendentemente che l'altro sia qualunque tipo di altro, e ce l'abbiamo anche per le piante, perché poi sai, quando ci sono tutte quelle varie discussioni fra carnivori, onnivori, vegani, vegetariani, dicono: allora tu non vuoi ammazzare un animale perché ti fa pena, perché non lo vuoi, e quindi non lo vuoi mangiare, ma anche le piante soffrono. Quindi abbiamo, credo, il massimo esponente su questo argomento. Beh, con cui potremo confrontarci. Sicuramente oggi, un no? grandissimo esperto, nelle ricerche che io ho fatto, ha tenuto un TED, tra l'altro, molto interessante. A proposito di TED, che qualche mese fa ne abbiamo parlato, è il professor Stefano Mancuso. Buongiorno, professore. Buongiorno. Buongiorno professore, lei non Buongiorno. Sa quanti video mi ha fatto vedere Angelo pazzeschi con le piante, quello che dice lei sul mondo vegetale. Eh no, perché sì. Sai, parliamo tanto della prospettiva del mondo animale, io mi sono detto estendiamo la cosa, io voglio capire meglio e voglio comunicarlo anche ai nostri ascoltatori, la prospettiva dal punto di vista delle piante. Anche perché professore, lei deve sapere, io sono stata un'appassionatissima della cultura degli indiani d'America, i famosi pelle rossa, e sono cresciuta col fatto che loro, quando dovevano tagliare una pianta, un albero per costruire le loro capanne, i loro tipi, e per tutto quello che potevano fare con una pianta, comunque ringraziavano l'anima della pianta per essersi donata, sacrificata per loro, perché anche le piante hanno un'anima. È vero? Facevano benissimo. Ecco. Sì. Facevano benissimo, perché ora non so se le piante abbiano un'anima, ce l'hanno perlomeno quanto gli animali. Ah, fantastico. Quando si parla di della prospettiva dal punto di vista delle piante, è fondamentale, perché di fatto, senza nulla voler togliere al mondo animale, è la prospettiva della vita. Se si pensa alla quantità delle piante che esistono su questo pianeta, che spesso sfugge, ci sono diverse stime, ma si parla, diciamo, dall'80 al 98% del peso di tutto quello che è vivo è fatto da piante. Quindi diciamo che la vita su questo pianeta, se noi non la guardassimo dal nostro punto di vista, che è ovviamente animale e umano, è una vita vegetale. Vedi, quindi sì, facendo una media possiamo dire tra l'80 e il 98, almeno il 90% sì, circa del peso degli esseri viventi su questo pianeta è fatto da piante. Ma quindi è verissimo, quando io purtroppo tanti anni fa ho iniziato a sentire questa frase, a volte a volte anche come allarme, del fatto che le piante siano il nostro polmone, cioè dell'Amazzonia, che se viene distrutta noi non respireremo più. Ah beh, certo, voglio dire, noi siamo tutti gli animali del pianeta sono direttamente dipendenti dalle piante. Questa è un'altra cosa che dovrebbe essere ben chiara a tutti, cioè noi tutto l'ossigeno che respiriamo viene dalle piante. Lo dobbiamo a loro. Lo dobbiamo a loro, e tutto quello che noi, e anche tutta la nostra alimentazione proviene dalle piante. Anche se mangiamo poi della carne, questa carne si è potuta formare perché quegli grazie animali si sono nutriti alle piante, ma le piante sono alla base dell'alimentazione. Però io farei un passo oltre. Ma le piante che cosa pensano degli esseri umani? Cioè, nel senso, lei è un esperto di cognizione, sì, delle piante. Cioè, sì, le piante possono soffrire, hanno una cognizione, fino a che punto? Allora, iniziamo, diciamo, dalla sensibilità. Cioè, le piante sono degli esseri viventi che sentono il mondo intorno a loro con una risoluzione, con una complessità superiore a quella animale. Il motivo è banale, perché non potendosene andare in giro, non potendo correre, scappare come fanno gli animali quando accade qualche cosa nel loro ambiente, anche noi uomini, diciamo, noi evitiamo i problemi, non li risolviamo, noi animali, e le piante non lo possono fare, le piante sono costrette a risolvere i problemi, quindi quando qualche cosa cambia intorno a loro, innanzitutto lo sentono con grande anticipo rispetto agli animali, perché hanno una sensibilità superiore, cioè sentono proprio un numero di parametri fisici e chimici che è superiore rispetto a quello degli animali. E poi, secondo punto fondamentale, risolvono davvero i problemi. Cioè, per capirci, se una pianta se fa caldo, se fa freddo, se non c'è abbastanza acqua, nutrienti, o bisogna trovare un compagno con cui riprodursi, le piante devono risolvere questo problema lì dove invece gli animali normalmente quello che fanno è si spostano dove questo problema non esiste. E quindi hanno dovuto sviluppare un apparato sensoriale, possiamo chiamarlo così. No, ma fantastico, ma sta dicendo cioè, professore, lei sta dicendo delle cose che mi sta cambiando in una frazione di secondo la prospettiva della mia vita proprio. Cioè, ancora di più rispetto a quando mi sono approcciata al mondo animale. Sì, beh, guardi, le faccio un esempio banale. Le piante non hanno organi, organi singoli o doppi come i nostri, o due polmoni, uno stomaco, eccetera, come un cervello, come mai? Perché gli organi sono metodi, sono un punto debole. Lei pensi se una pianta avesse due polmoni o un cervello, il primo bruco che ne mangiasse un pezzettino la ammazzerebbe. Allora, le piante si sono evolute per non avere organi e per diffondere su tutto, per distribuire su tutto il corpo tutte quelle funzioni che invece negli animali sono svolte dagli organi. Già questa differenza è una differenza incredibile fra un modello, diciamo, verticistico come quello animale, in cui tutto è governato dal cervello e poi ci sono degli organi, è un sistema distribuito che è come quello delle piante, che è meno, diciamo, veloce nelle risposte, ma è incredibilmente più robusto e anche più creativo, nel senso che proprio l'organizzazione distribuita aiuta a risolvere i problemi, cioè aiuta a portare avanti delle soluzioni nuove. Senta, professore, ma sì, mi affascina il fatto che le piante abbiano queste radici che assomigliano ad un sistema neurale come il cervello degli animali. Cioè, questa analogia funziona fino a che punto? È bene dire subito che le piante non hanno nulla che assomiglia a un cervello, neanche lontanamente, però ha ragione quando dice che un apparato radicale con la sua complessità ha molte similarità con un sistema neurale. Innanzitutto di che dimensioni parliamo? Pensiamo che una piantina di grano ha 800 milioni di apici radicali, un albero, che ne so, come un tiglio, un olivo, può averne centinaia di miliardi. Ora, ciascuno di questi apici radicali, ciascuno di loro, è in grado di percepire almeno 20 parametri chimici e fisici in continuazione e poi di elaborare queste informazioni e di prendere una decisione su dove andare. Allora, se uno pensa che tutti questi apici radicali funzionano insieme, è come una specie di colonia di insetti, è come, immagini un enorme sciame o un'enorme colonia di formiche, in cui una singola formica è un animale abbastanza stupido, non è in grado di fare moltissimo. Ma insieme la colonia riesce a fare delle cose incredibili. La stessa cosa funziona con l'apparato radicale delle piante. Torna quell'assunto di base della psicologia della Gestalt che dice: il tutto è maggiore della somma delle parti. È verissimo, ma poi diciamo, così come l'intelligenza, le ultime teorie dicono che sia proprio una proprietà emergente, diciamo, della moltitudine dei neuroni del nostro cervello, io direi che così come l'intelligenza può emergere dalla moltitudine dei neuroni, può emergere dalla moltitudine, da qualunque moltitudine di moduli che si ripetono. In questo caso stiamo parlando di miliardi di apici radicali che lavorando insieme hanno delle proprietà emergenti che sono non diverse dall'intelligenza neurale. Incredibile. Ma quindi, professore, la pianta, visto che adesso abbiamo capito che è totalmente strutturata, totalmente diversa da tutto il regno animale, prova dolore, paura, dolore, stress? Allora, questa è un'ottima domanda alla quale, diciamo, la risposta scientifica è non lo sappiamo. Cosa vuol dire? vuol dire che sappiamo perfettamente che se una pianta per esempio è ferita, emette dei segnali che passano in tutto il suo corpo e addirittura emette dei segnali che avvisano le altre piante di questo fatto. Però che questo sia dolore è un'altra storia. Il dolore è qualcosa che si è evoluto negli animali per una funzione utile. Nel senso forse che legata anche a una parte particolare del cervello, e sì, la pianta non solo, ma è legata al movimento. Cioè se noi facciamo una cosa che è dannosa per noi, sentiamo dolore perché così possiamo, ci spostiamo, mettiamo la mano sul fuoco, l'esempio classico, sentiamo dolore, la possiamo rimuovere, spostare. Certo. Le piante però innanzitutto non possono spostarsi e poi hanno seguito una linea evolutiva per cui sono soggette a predazione, cioè una pianta può essere predata, anche il 90% del suo corpo può essere eliminato e la pianta continua tranquillamente a sopravvivere. Le piante per esempio non sono individui, individuo vuol dire non divisibile, viene dal latino individus. Ecco, gli animali sono tutti quanti, con tranne pochissime eccezioni, individui. Io non posso tagliare un cane, un gatto o un verme in due, certo, e lasciarlo vivo. Invece le piante sì. La mia però è una personale opinione, qui non, diciamo, non è una evidenza scientifica, è che loro non provino dolore perché non avrebbe alcun vantaggio in termini evolutivi. Ah, certo. Bene, con questo facciamo una piccola pausa, ci risentiamo tra poco col professor Stefano Mancuso. Per il tuo vino scegli il meglio, Colombin, tappi in sughero, fidati di un esperto. Vi presenta Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva animale. Allora, abbiamo il professor Stefano Mancuso che ci sta raccontando il mondo dalla prospettiva delle piante, di tutta la parte verde del nostro pianeta e come... Ma anche della cognizione delle piante, della cognizione, no? Delle piante. Infatti, se chiedeva Rosetta del pollice verde... No, cioè, professore, io le giuro davanti, giuro su tutto quello che volete, che ho aperto una nuova finestra sulla mia, sul mio io più intero, sulla mia anima, con questa consapevolezza delle piante meravigliosa. Adesso vedrò tutto sotto una... Ma non sto scherzando, sono serissima, perché uno si immagina una pianta facendo rapporto su come sei tu. Invece no, bisogna distaccare l'immagine dell'animale da noi animali, da quello che è il mondo vegetale, perché loro non hanno gli organi come noi, loro sono, non sono... Insomma, tutto quello che ha spiegato lei prima, io non vorrei rovinarlo con parole mie. Ma no, andiamo avanti col discorso, poi sul finale faccio la mia domanda banale. Poco fa, durante la pausa, tu hai detto: ma sta roba del pollice verde, cioè, noi è possibile che abbiamo un rapporto, una relazione con una pianta, professora? Cioè, possiamo realmente parlare di questo? Sicuramente una pianta ha nozione, diciamo, della presenza degli animali accanto a sé, quindi anche degli uomini. E arriverei a dire che molto probabilmente è anche in grado di percepire differenze fra le diverse, diciamo, entità animali che stanno qui accanto a sé. Da qua a dire poi che una pianta è in grado di riconoscere una particolare persona o di comportarsi o di avere attività diverse in funzione delle diverse persone, insomma, ce ne corre un pochettino e non è facile. Non dare possiamo... però diciamo, possiamo sicuramente dire che una pianta è consapevole dell'ambiente, sia fisico sia anche, diciamo, della presenza e dei comportamenti di altri animali, uomini compresi. Tutto ciò che rappresenta le emozioni tipicamente animali la pianta non ce l'ha. Cioè, se una pianta non soffre, non riesce a distinguere il dolore dalla felicità, dalle cose, oppure un minimo... Cioè, riesce però a... Se non ho capito male, riesce però a capire il contesto in cui sta, giusto? Sì, non solo riesce a capire il contesto, riesce anche a capire ciò che è bene per la sua vita e ciò che non è bene per la sua vita. E il problema vero, sa qual è? Che tutti i termini che noi usiamo per descrivere sensazioni o comportamenti sono stati studiati per gli animali e sono sempre stati utilizzati per descrivere delle cose che noi capiamo benissimo perché sono molto vicine a noi. Quando cerchiamo di allargare questo concetto ad includere le piante e utilizziamo termini come gioco, memoria, sofferenza, sensibilità al mondo delle piante, c'è qualche cosa un po' che stride, ma certo. Il fatto è semplicemente perché noi siamo abituati a concepire questi termini applicati legati esclusivamente a ciò che assomiglia tantissimo a noi. È come la storia degli animali, cioè noi per, normalmente per rispettare un animale abbiamo bisogno di pensarlo simile a noi, altrimenti vuol dire che essendo lontano possiamo anche approfittarcene. Questa è una cosa che a noi non piace, poi si ricade in quella cosa che abbiamo, di cui abbiamo parlato qualche volta, che è l'antropocentrismo. Anche mi ha fatto vedere un video con lei, con una pianta che poi ha mandato più veloce, si vede la pianta che cerca l'appiglio più vicino. Come fanno a capire dov'è il punto? Dove non avendo gli occhi. No, non avendo gli occhi, ormai sarei cretina se pensassi almeno quello l'ho capito. Sì, non avendo gli occhi. Io per esempio non ho ancora capito, cioè loro hanno un apparato sensoriale così sofisticato da capire che cosa c'è attorno a sé. Sì, sì, assolutamente. Non soltanto capiscono, per esempio un fagiolo non soltanto ha ben chiaro quali sono i possibili appigli, pali su cui arrampicarsi intorno a sé, anche a distanza. Lo percepisce attraverso tutta una serie di organi di senso che gli dicono, per esempio, le differenze di luce o le differenze, diciamo, di anticampi magnetici. Ci sono diversi apparati sensoriali che vengono interessati da questo. Ma poi la pianta ha addirittura la capacità di avere di annozione del comportamento delle altre piante. Una pianta di fagiolo, per capirci, sa cosa sta facendo una pianta di fagiolo accanto a sé. Questo diciamo, è qualcosa che noi normalmente abbiamo associato soltanto alla vita animale. Non pensiamo mai che una pianta abbia addirittura consapevolezza dei comportamenti delle altre piante. Ma noi cosa possiamo fare per il mondo verde, per il mondo vegetale? L'uomo che cosa può fare di bello, di buono, come possiamo? Beh, dunque, il mio sogno è sempre quello di vedere un giorno, quando ero bambino io, era abbastanza comune vedere dei ragazzini che facevano cose catastrofiche con gli animali, tipo legare il barattolo alla coda dei gatti, oppure si uccidevano le lucertole con i sassi. Ecco, oggi queste cose già si vedono molto molto molto meno. Meno male. E per fortuna. Ecco, quello che io mi augurerei un giorno è vedere i genitori che quando hanno il figlio che strappa dei rami o delle foglie ai giardini, gli dicono: ma guarda che questa cosa che stai facendo non si fa, perché questa pianta è una creatura che sente, che è sofisticata e soprattutto che ci regala tutto, perché se noi possiamo vivere lo dobbiamo veramente a loro. Allora cosa possiamo fare? Io personalmente sto portando avanti una campagna che per ora sembra abbastanza, diciamo, che suscita per lo più ilarità all'inizio, che è quella dei diritti alle piante. Però sono certo che prima o poi ci arriveremo. Mi hanno raccontato, diciamo, dei colleghi storici che quando ai tempi dell'Impero Romano, in cui l'unico organismo detentore di diritti era il padre di famiglia, quando qualcuno durante l'Impero Romano disse: ma forse anche i figli maschi, dai, potrebbero avere dei diritti, suscitò ilarità. Bene. Sì, sì. Quindi ecco, poi quindi ogni volta che si cerca di allargare, di estendere i diritti agli esseri viventi di qualunque tipo, c'è sempre la prima reazione, è sempre di stupore, di sconcerto. Però alla fine sono sicuro che arriveremo ai diritti delle piante, e quello che è fondamentale è che i diritti per le piante non servono tanto alle piante. Le piante ci sopravviveranno sempre su questo pianeta. Serve a noi, perché veramente sono i diritti, di a dare dei diritti a qualche cosa da cui dipende la nostra sopravvivenza. A cui dobbiamo portare grande rispetto. E cosa non va fatto assolutamente che lei vede? La cosa più macroscopica e terribile che l'uomo fa è quello di deforestare ogni anno una quantità di foreste pari alla superficie della Gran Bretagna. Mamma mia. Questa è una follia, è come tagliarsi veramente un braccio, come distruggere le fondamenta su cui è messo il proprio palazzo, ecco. ecco. Professore, guardi, lei non sa che piacere aver parlato con lei, magari ci risentiamo perché è stato veramente un piacere. Rimaniamo in contatto, noi siamo a disposizione se lei ha voglia di usare noi, la nostra trasmissione, la radio. Ha scritto diversi libri, vi suggerisco Verde Brillante, Sensibilità e Intelligenza del Mondo Vegetale, edito da Giunti Editore. Grazie professor Mancuso. Grazie a voi. Grazie professore, a presto. Buongiorno. Che meraviglia questa domenica, così adesso andiamo in un parco. Sai Rosita, un insegnamento di compassione che ho avuto dalla mia mamma. Una volta stavo sbattendo per terra un fumetto e mia mamma mi ha guardato e mi ha detto: ma sai Angelo, anche quello ha un cuore. E per me è stato un grande insegnamento, perché mi sono fermato subito e ho esteso questa cosa di avere un cuore non soltanto agli altri esseri viventi, ma addirittura anche alle cose, agli oggetti. Anche il respiro delle pietre, dicevano gli indiani d'America. Scriveteci, chiedimi se sono felice, @radio24.it. Ciao, ascoltate buona domenica. Podcast. Ciao.